volta fa la semplice. Il professore mi chiede del seno, poi mi trovi anche il vertice. Ma che figura di merda, digli che tutto si risolve con l'arrivo dello sperma. La matematica è opinione più sublime, ma tanto chi c'ha cash non le sa le tabelline. Le materie non si coniugano, prova, qua si mette sul mercato la mia stoffa. C'ho le rime più preziose sotto il sofà, soffocato dall'affanno, dall'affa e non trovo il fa. Famigerato equilibrio mentale, come stare nella società civile senza stare male, come stare senza dire tutto ciò che manda male. Ma non mi ascolta manco l'assessore comunale, pa. Trova affascinanti le donnine colpa tua, parla pa. Pepe pezzo di Dio che sa warfare, sei un pezzo di sticchio da Vanity Fair, che se fossi inglese ti saresti fatta Blair. Ma siamo in Italia e baby bunga bunga, qua ci sono brasileiri, giocano con Dunga. Sono SpongeBob detto spugna, tu suoni come prugna, fai cagare Peter Pan di Spagna. Io sono come Wasabi con dell'anduia, tu sei la farina che hai comprato come raglia. L'inno di Mameli non lo so quando lo cantano, sai come io ascolto solo cose che mi piacciono. Parlo alle persone fino a quando loro tacciono. Oh fiore spontaneo, sai illuminare anche a braccio. Ma che mi piace? Non l'hai capita? Vuoi sapere in prosa cosa dica? Vuole dire che piaccio alla figa e non faccio fatica. Se sto piangendo è perché ho perso le siga. Mi vida, odio la movida, ma c'è chi la fa santa. 90-60 a 90. Non è che voglia dire che c'è un culo da paura, non si tratta di fortuna, ma mi sta parlando il ganga. Gioco a pinball con le palle di pinco pallino, gioco pure a bocce, in questo caso fa il pallino. Poi gioco a ping pong con il ping a vicino, poi lo butto nel po, ciao ciao bambino. E non lo vedi, la corrente è troppo forte, ma mi sa che la corrente è un affluente da 230 volte. Voglio andare in paradiso, mi si aprono le porte, voglio che quel tuo bel viso assaggi rughe della morte. Sapete non amo il papete, io tiro le pietre ma con i peccati. Sappiate che vi hanno paccati, governano solo più condannati. Sapete che quello che siete è la rete globale degli sfigati. Il bomber è andato a rete, no, si schianta contro i pali. Bam. We'll be right back.